24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, col doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Questo Matacena si dice era di Forza Italia, io non me lo ricordo, ma forse è stato nostro deputato per poco tempo nel 94, 20 anni fa. E quindi mi sembra che si stia esagerando tutto. Non ricordo, non ricorda Silvio Berlusconi Matacena, deputato di Forza Italia per 7-8 anni, non ricorda. Ma è come a sinistra, primo Greganti chi? Primo Greganti chi? Non ricordano. Non ricordano. La parola più utilizzata è dai politici in questi giorni: millantatori, millanterie. Tutti che conoscevano, tutto, era il mio uomo, potevamo raggiungere quello, potevamo raggiungere il presidente della provincia, della regione, il governatore. No, millantatori, millanterie, nessuno. Non lavoravano per nessuno. Lo stesso primo Greganti, interrogato dai magistrati, ha detto: io mi occupo di legname, filiera del legname. Questa è stata la risposta di primo Greganti, anche se qualcuno invece ammette: Cattozzo, ho dato 500.000 euro di mazzette. L'imprenditore Maltauro, pare abbia detto il primo interrogatorio, davo 100.000 euro l'anno di mazzette per poter lavorare. E sempre questo Cattozzo ha ammesso, è vero, quando è stato beccato agli arresti, nascondeva i post-it con l'annotazione delle tangenti nelle mutande. Va bene, questa è 24 mattino, cari ascoltatori, sono le 6:33 minuti e guardate che c'è un ritorno clamoroso oggi, clamoroso. Intanto saluto Miriam Lucchetti, anche lei è un ritorno, perché ieri... Saluto Peter Bescapè, anche lui è un ritorno, reduce dalla dunata degli Alpini, ancora delle grolle che gli escono dalle tasche. E apriamo il Parlamento perché c'è il ritorno clamoroso. A un caffè si può avere? Il caffè volentieri a tutti quanti. Clamoroso il ritorno che abbiamo lasciato così un po' sospeso. È con noi ed è l'unico ospite guest star nel nostro Parlamento di oggi, Alberto Forchielli. Ciao Lino, ciao. Ciao, come stai? Dove sei intanto nel tuo peregrinare? Dove sei? Sono a Hong Kong. A Hong Kong. Sì, mezzogiorno e mezzo per me, comodo. Beato te. Mezzo. Hai visto che nessuno... Come stai intanto? Da quanto tempo la gente diceva: hai licenziato Forchielli? Ma Forchielli, se vuole viene qui, mi piglia calci nel culo e mi sbatte fuori. Ma come faccio a licenziare Forchielli? Vi rendete conto? Che fine hai fatto, Albertone? Ah no, sono sempre stato negli Stati Uniti, per cui per collegarmi con te dovrei aspettare mezzanotte e mezza. Ma io sono uno che va a letto con i conigli, alle 7 vado a letto. Alle 7 a pestare fino a mezzanotte, poi dovrei prendere dei caffè per stare sveglio per fare la trasmissione. Per cui faccio la notte in bianco quando sono negli Stati Uniti, impossibile. Meglio coi conigli, meglio dormire con i conigli. Sì, io mi sveglio prestissimo e vado a letto prestissimo. Fantastico, eccolo qua, Alberto Forchielli. Allora hai visto che cosa ne pensi? Cosa raccontano, per esempio, di questa cosa dell'Expo? Tu che l'Expo l'ultimo l'hai visto in Cina, Cosa dicono dell'Expo nel mondo? Dunque, dell'Expo non dicono assolutamente niente da anni. Io non ho mai letto sulla stampa internazionale che io seguo con molta attenzione, non ho mai visto un articolo sull'Expo di Milano. Anche perché l'Expo è una cosa da paese, è una cosa vecchia. Fu inaugurata 2 secoli fa. Tu fai conto che la Torre Eiffel fu fatta per l'Expo di Parigi. Certo. La porta di Corso. Ormai può andar bene per un paese emergente che si vuole imporre, come è stato per la Cina nel 2010. Tenendo presente che io in quel periodo lì vivevo a Shanghai e feci di tutto per non andarci. Io sono l'unico che è riuscito a non andare all'Expo di Shanghai. Neanche per sbaglio, evitavi la strada proprio. Veniva la gente, tutto, io facevo... No, anche se è un altro padiglione perché era molto bello, però in un mondo virtuale, in un mondo 2.0, 3.0, sai, questa roba all'Expo è una cosa stanca. Stanca. E quindi? Una cosa stanca. No, perché oggi viene qua. Se ne parla solo in Italia. Solo in Italia. Io lo leggo solo sui giornali italiani. Ma oggi viene Renzi, adesso... Renzi a Milano per rilanciare l'Expo, non è che... Sai, è una cosa che, sai, l'Italia ha bisogno di vittorie, ha bisogno di esibire, un momento che sono tanti anni che non vinciamo, non le teniamo niente. In realtà questa Expo abbiamo fatto una grande occasione per il distrapolatore del mondo. Questa storia del tira la lunga, pompa lassù, falla sui terreni privati. Arriva alla fine, è arrivata, capita, l'occasione più ghiotta per fare quello che abbiamo sempre fatto, perché in realtà la corruzione si combatte solamente con lo sviluppo morale e materiale di un paese. Però da mani pulite in qua non c'è stato né l'uno né l'altro. Per esempio, questo primo Greganti, tu te lo ricordi? Perché adesso sembra tutti che primo Greganti, ma chi fa? Pare che facesse affari anche con la Cina. Greganti come la polvere sotto il tappeto. Sono 20 anni che rimescono per le sue coppie il PD. Adesso speriamo che Renzi incominci a fare pulizia. Sì, no, quel giro lì. Ex PC di una volta, sono 20 anni che mi lancia rapporti con la Cina, ma sono rapporti vecchi. Perché si incontravano con le giovanili quando ancora facevano con la FIGC, capito? Sì, se sì. Vai a scartabellare trovi ancora le foto di D'Alema in calzoni corti, capito? Però è una roba adesso. Rapporti un po' così. Millanterie anche queste. Questa è un'altra di quelle parole chiave. Sì. Ma hai visto invece quello che l'hanno beccato, metteva post-it nelle mutande. Finiscono sempre così poi. Quello Tangentopoli che buttava nello sciacquone del cesso, no? Le tangenti, ad Chiesa. Pagare le stecche è un'arte, eh? Cioè, non è una roba. Io ho avuto posizioni importanti, avrei potuto prenderle e avrei potuto darle. Io devo dire, tutta la mia vita non c'è mai stato nessuno che me le abbia mai chieste o mai offerte. Secondo me, io ho passato 20 anni della mia vita senza mai accorgermi dei segnali. Nel senso che magari ci sono delle parole criptiche, ci sono dei segnali, ci sono delle cose particolari che uno deve capire, vedere. Io non ho mai visto niente, si chiede a me, ma mai offerto, ma mai chiesto niente. Oppure pigliavo le informazioni prima. Comunque io mi sono reso conto che è un vecchio mestiere, ci vuole l'arte. Bisogna essere credibili. Bisogna dare copertura, nel senso di dire io sono uno che non parla, anche se questi qui hanno fatto proprio una roba da caimani con 15.000, una roba, capito, con i soldi. Dicevano dei manager pubblici, coccoliamoli come belle donne, perché poi è sempre così, poi dovevano fare affari. Però insomma, caro Alberto Forchielli, ti ricordo che siamo in par condicio, ora io devo chiederti che cosa ne pensi di Berlusconi, che ha detto anche di Mattacena, non lo conosco, Scajola non è in Forza Italia da anni, ne ha preso un po' le distanze, no, nel momento in cui è stata arrestata. Allora, Berlusconi, No, ecco. Ma cosa vuol dire? Che tutto quel giro lì sia... quel giro lì è quel... Non è cambiato niente in Italia. Cioè, quel giro lì andava bene finché c'era la guerra fredda. Finita la guerra fredda si poteva anche cambiare, però no. Niente, niente. Sono rimasti lì, quindi quei rapporti strani tra imprenditoria, politica, criminalità che vengono su, che vanno giù, queste figure intermedie. Lì, quando c'è stata la grande svolta con la caduta del muro di Berlino, non si è riuscita a liberarsi. Niente. Ha fatto riuscito. Fuori Falcone Borsellino. Ma per cosa c'è? Cosa c'è? No, è stato tutto un momento critico quello. Quel passaggio della caduta del muro di Berlino, lì si poteva fare a meno anche della mafia. Perché fino alla che c'era il muro di Berlino, la mafia serviva. Servivano i voti della DC, ragazzi. Per scherzo. Ecco, facevano comodo i voti del sud, i voti clientelari, facevano comodo, le pensioni baby perché si davano per mandare a casa la gente e poter fare altre assunzioni, la forestali come le abbiamo fatti, capito? Dopo quando il mondo è cambiato e i blocchi sono finiti, c'è stato un attimo Mani Pulite partita, è potuta partire, poi a un certo punto due sberle, tutti a casa. E via. E si è ritornati, e sono i vecchi nomi, non stiamo a far nomi, tutto qua, sono sempre gli stessi. Sì. Quella borghesia stracciona, senza principi, che ha sempre strafficato in Italia in lungo e in largo. Peraltro... Devo dire che mentre dell'Expo non se ne parla, su tutti i giornali del mondo c'è la foto di Berlusconi che entra lì a Casal Boscone, non so come si chiama. Cesano Boscone, che Casal Boscone. Una roba, è su tutti i giornali del mondo che lo trascinano dentro. Una vergogna incredibile. Ma lo trovi dappertutto, capito? Quello sì che ha fatto notizie. Servizi sociali. Vabbè, quello ha fatto notizie. Senti, tra l'altro, Berlusconi che parla di Scajola, no? Dicevamo, Scajola in carcere. Scajola, tra l'altro, ieri è stato trovato, è andato a trovarlo un parlamentare. Sapete che i parlamentari hanno questa prerogativa, possono andare in carcere. E ha detto: io sono come Andreotti. Ha detto Scajola, sono come Andreotti, mi dovranno chiedere scusa. A lui suonava come un complimento. E sentiamo Berlusconi. Scajola intanto da alcuni anni non faceva parte più della nostra organizzazione politica, e anche lui oggi è in carcere perché mi sembra, sintetizzando, che abbia cercato di aiutare un amico latitante in difficoltà, richiesto dalla moglie di questo amico. Insomma, voleva aiutare un amico latitante, questo Berlusconi dice di Scajola. Ma di Scajola che pensi, Alberto? Vabbè, ma un po' ci hai già detto. Il poveraccio che cerca di sopravvivere. Insomma, poveraccio, sì, è in carcere. Fa parte di quel mondo lì, gli è cambiato il mondo, si è bruciato, quindi però ancora tanti rapporti, cerca di fare a gala come può, come tutti, siamo tutti un po', non penso né bene né male, penso che sia uno come tanti altri, solo che lui ha avuto più sfortuna di altri probabilmente. Vabbè, allora andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Siamo con Albertone Forchielli, presidente dell'Osservatorio Asia, che è tornato con noi, e poi parliamo allora di un po' di economia, se l'Italia ce la fa, arrivano questi 80 euro dell'Expo, qualcosa abbiamo detto, tra pochissimo, state con noi. 24 mattino. Buongiorno caro Mila. Io proporrei di cambiare il detto Milano da bere in Milano da sputare. Che schifo tutti quanti. Ma come? La televisione era vecchia, obsoleta. C'era solo il web per i 5 Stelle. Ma allora Grillo cosa va a fare da Vespa? Si è piegato anche lui al potere, al fascino del video. Milan, se dovessi avere delle pendenze legali con Mauro Meazza, puoi sempre scappare e darti la latitanza in Libano, a Beirut. Per i dettagli chiedi a quelli di Forza Italia. Volevo ringraziare l'Europa per quanto ci aiuta con gli extracomunitari, col Mare Nostrum, vedo che loro ci aiutano molto. Infatti rivoteremo per l'Europa, perché è una cosa che serve, è una cosa importante. Penso proprio che darò un bel voto a Grillo. Grazie. Di colpi ne abbiamo visto una granuola. Al Gabbio hanno infilato anche Scaiola. Ma i colpi sono stati proprio tanti. E nei pasticci c'è pure Greganti. Poi nell'Expo chi regna è la vergogna. E il più pulito, certo, avrà la rogna. Ciao Neda, Felice Pautasso. Eccolo qua, è tornato, molto molto attuale, Felice Pautasso. Che saluto e abbraccio, e così come abbraccio Albertone Forchielli. Allora, Alberto, di Berlusconi hai detto, sei stato... Cioè, mi hanno detto che l'altra sera c'aveva un fondo tinta che sembrava un fondo tinta marrone, non so. Adesso, se forse voleva assomigliare al nonno della Kang, non so, volevi buttare la Kang. No, al nonno della Kang. No, perché poi l'altro giorno, cioè, prima al nonno della Kang, no, perché prima la storia dei cani, sì. Poi dopo la storia delle dentiere l'ho letta. Sì. Io credevo fosse una gag, non credevo che fosse vera, no? No, è vero. E poi ho detto, adesso voglio provare a fare una gag su questa roba qui, ma è impossibile fare una gag su una gag. Mi è venuto come il botulino alla lingua, capito? Mi sono rimasto bloccato. Poi ho pensato, è assolutamente vero. Potrebbe farlo nella regione di preservativi, per esempio. Coprire un'altra fascia, no? No, vuole sì dare le tentiere gratis per gli anziani. L'ultima, in realtà, ha detto anche 1.000 euro di pensione per le casalinghe, che sono 7 milioni, 8 milioni, quindi insomma, i conti pubblici poi sono quelli, mentre invece, come lo vedi Renzi? Ah no, ecco Grillo che appunto torna in TV, è incredibile, lunedì prossimo andrà da Vespa porta a porta, infatti anche oggi Aldo Grasso sul Corriere dice, ma come, lui che la TV, i talk show non si deve partecipare, ma vedi, andrà anche lui in TV. Grillo, che ti pare di Grillo? Se ne parla all'estero, che attenzione c'è su un ex comico ormai diventato politico? No, pessime. Mentre prima c'è stato un momento in cui era quasi divertente, 2 anni fa, gli stessi americani, sai, hanno avuto Ronald Reagan, presidente, loro, capito? Per cui è normale per gli attori, Schwarzenegger che ha fatto il governatore della California, per cui era anche accettabile, poi dopo adesso proprio se ne parla solo male. Più che un parlamentare, Grillo è un campione di biliardo, boccia tutto. Boccia, questo sì, è più, boccia è più, tutto. In più è uno che pesta delle gran merde, a volte anche a piedi nudi, come quello sugli ebrei. Ah sì, vabbè, quella sì, che disse. E invece vabbè, e poi dobbiamo sistemare anche Renzi, così. Oh, avete capito, è tornato Forchielli, sistema adesso. Ha visto Renzi, non so se ti è arrivata questa notizia, ieri passeggiava, appena uscito da Palazzo Chigi, ha trovato 20 euro per terra. Allora c'è questa foto di lui che raccoglie, si alza e dice, poi dite che non trovo le risorse, e ha sventolato questi 20 euro trovati. Vabbè, gli gira buona di questo periodo. O no? Ma sai, sì. Mi sta un po' lievitando, sì, anche nelle affermazioni. Per me si è seduto per sbaglio su un compressore della nuova opinione. L'altro giorno ha detto, l'Ocse ha fatto la revisione sulla crescita Italia dallo 0.6 allo 0.5 per il 2014. e lui dice che questa previsione sarà smentita. Cioè, c'è il complesso di Nietzsche, superuomo. Cioè, voglio dire, a parte quella è una previsione sull'anno in corso, fatta ancora da Padoan, quando era l'Ops. Quindi, come pensa lui di potere, capito? Non, cioè, l'economia di un paese non è la partita della Fiorentina, capito? Che a metà partita, durante il secondo tempo ti chiedo, beh, sei sotto 1-0, che la fai? Vinceremo, no? No. Non è che puoi fare 3 gol l'ultimo trimestre, capito? Non puoi fare, non puoi mettere in campo il centravanti. No, non è così. Comunque Renzi è meglio di Uri Geller, Ti ricordi quello che piegava le forchette col pensiero? Ah, sì, come no? Perché? Perché? Posta bonus e tasse senza che se ne accorga nessuno, per un genio. Dai bonus da una parte, le tasse da quarta, alla fine fa pazza, capito? Come Uri Geller, Uri Geller, sì, certo, ricordo, quello che piegava le forchette col pensiero, sì, certo, ricordo, sì. Ma dove ti vengono queste, Renzi, come Uri Geller, da dove ti vengono, Renzi, come Uri Geller? Non so, sono le simulazioni mentali che faccio quando vedo certe affermazioni, l'articolo non c'è copertura, che pensa sia una roba. Adesso ormai comunque Grasso è diventato un nuovo testimone dell'attacco, impossibile staccarlo dalla poltrona, Ma Grasso chi? Il presidente Grasso, sì. Albertone, visto che io sono contentissimo, sei tornato, spero che tu non sparisca adesso per 20 mesi, ma che tu possa riapparire al Parlamento. No, sono in Asia, perché le poste due settimane sono in Cina, poi sono ancora a Hong Kong. Allora in Asia, voglio dire, ti chiamiamo ben presto. Manca un minuto, devi dirci qualcuno che salvi, uno che salvi da questa immagine dell'Italia. Va l'alpino dal pozzo. No, ho capito. 31 anni, capito? Il più vecchio alpino d'Italia. L'unico che salvo è l'alpino dal pozzo, che era alla sfilata e si è anche alzato a Pordenone. L'unico che salvo. Io quelli che hanno sfilato a Pordenone li salvo tutti, uno per uno. C'è anche il nostro alpino Peter Bescapè in regia che sta esultando. Vai Alberto, vai, grazie, grande. È lì così, salvi gli alpini. Ho capito. Metteremo un alpino premier. Cosa dobbiamo fare? Metti l'Associazione Nazionale Alpini al governo. Oh, l'ANA al governo. Esatto. E risolviamo tutto. Albertone, grazie, grande, è stato con noi e ci sentiamo alla prossima. Dall'Asia è tornato Alberto Forchielli, è tempo di giornale radio, grazie. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. Eccoci qui, cari italiani, alle 7:17 minuti, debosciati d'Italia, che state facendo? Forza, forza con le vostre eterne colazioni, Dai, cari italiani, eccoci qui a parlare, a raccontare quello che c'è sui giornali e a ricordarvi che alle 8:15 parleremo di che cosa? Parleremo della strage che c'è stata, i numeri sono ancora incerti, l'ennesima strage di migranti nel Mediterraneo, le informazioni sono abbastanza imprecise, ancora frastagliate, comunque avremo ospite Gianni Pittella e Magdi Allam, due candidati all'Europarlamento, Gianni Pittella lo è anche europarlamentare, così come Magdi Allam, e parleremo con loro alle 8:30. Le accuse sono solite, quelle all'Europa di non aiutarci, di girare la faccia dall'altra parte. Avremo ospite anche quel generale, ieri lo aveva annunciato, generale dei Carabinieri che si è dimesso a Napoli, doveva controllare tutti i fondi europei, è stato messo lì, praticamente non gli è andato neanche un computer, non gli è andato neanche un telefono, lo hanno fatto lavorare, lui che è stato il generale che ha risanato in parte la ASL 1 di Napoli, ha detto sapete che c'è, me ne vado, perché la pubblica amministrazione evidentemente non è in grado di far funzionare

mamma mia, che livello, e come al solito sarà il primo articolo che leggerò tra poco. Bene, la carta costa. 24 mattino. Eccoci alle 8:17 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Nel giorno in cui Renzi sarà a Milano a rilanciare l'Expo, la grande manifestazione internazionale sulla quale certamente ci giochiamo anche parte della credibilità come sistema paese, noi e vi vogliamo raccontare una storia che anche questa riguarda i rapporti con la pubblica amministrazione. Una storia che vede protagonista un uomo che è già stato nostro ospite in passato. Chi ci segue con passione se lo ricorderà, è stato nostro ospite quando è stato commissario straordinario della ASL 1 di Napoli. È un generale di corpo d'armata dei carabinieri, è il generale Maurizio Scoppa, che saluto. Buongiorno generale, grazie per essere ancora con noi. Buongiorno, buongiorno a lei e a chi ci ascolta. Allora, molti sanno e si legge sui giornali che c'è un buco nero in Italia di cui spesso si parla, cioè i fondi europei che vengono erogati alle regioni. In Campania a quanto ammonta questa cifra? Tanto per fare capire di che cifre parliamo. La previsione iniziale del periodo che va dal 2007 al 2013 era di 7 miliardi. Successivamente ridotti a 4 miliardi di euro circa, e oggi sono ancora utilizzabili, dovrebbero essere ancora impiegati oltre 2 miliardi di euro. Utilizzabili oltre 2 miliardi di euro. Per questo lei fu scelto dalla regione come, leggo nella qualifica, esperto trasversale in legalità e sicurezza sui finanziamenti di Bruxelles, cioè doveva vigilare che questi soldi venissero gestiti con voglio dire con nel modo giusto. Perché lei si è dimesso? Leggo ieri sul Corriere della Sera questo titolo: il generale vigilava sui fondi e non aveva neanche a disposizione il telefono. Che succede, generale? Beh, vedete, spesso capita che anche la forte volontà politica che c'era e indubbiamente si è manifestata anche nella mia nomina di voler impiegare i fondi e volerli impiegare correttamente, poi viene superata e travalicata dalla inerzia, dalla inefficienza, dalla scarsa adeguatezza alle esigenze della burocrazia degli enti locali. Ma in che senso si è manifestato questo? Ce lo concretizzi? Che vuol dire? Proprio l'inerzia, nel senso che da quando ho iniziato l'attività non mi è stata data alcun mezzo, ma oltre i mezzi, anche se l'avessi voluto fare con mezzi miei, come quel poco che ho fatto, sono stato costretto a utilizzare mezzi miei. Tipo il computer, so che ha portato il mio computer, sì, anche la cancelleria di casa, non mi è stato dato alcun atto da poter controllare. Finora questo tempo la burocrazia regionale l'ha impiegato per studiare quali fossero i compiti che mi dovevano essere attribuiti, quando a me pare che siano ben definiti dalle norme europee, da quelle della legge italiana. Certo, cioè, e quindi lei insomma in questi sei mesi ha detto, ma che chi credo abbia fatto questo tipo di ammissione, è fin troppo chiaro che non vogliono che io lavori. Ma lei che spiegazione si è dato? Voglio dire, è stato scelto per essere messo lì in questo ruolo delicato e poi non la fanno lavorare? Ma vede, devo ritornare sul concetto di prima, talvolta anche la politica è superata dalla pubblica amministrazione, nel senso che io ritengo che il governatore Caldoro, che pure presta tantissima attenzione all'impiego dei fondi europei, per usare un termine golfistico, gioca con un handicap forte, è quello di dover svolgere la sua attività con una burocrazia che è rimasta ferma a decenni addietro. ma volutamente ferma. Volutamente ferma. Cioè, quando, guardi, quando lei, non la voglio far entrare in considerazioni politiche, ma sente dire, parlare della palude, la burocrazia come una palude, spesso usa questa immagine del Premier Renzi, l'ha toccata con mano questa palude. Sì, cioè questa vischiosità, queste sabbie mobili nelle quali affonda chiunque voglia svolgere un'attività un'attività sociale, un'attività per la comunità, un'attività imprenditoriale, e deve confrontarsi con questo sistema che è vischioso e è veramente un impedimento. Però mi scusi, generale, adesso il controllo su questi 2,5 miliardi c'è o no? Perché voglio dire, questo inquieta un po' tutti i cittadini. Ma c'è un controllo, controllo come su tutte le altre attività pubbliche, non c'è il controllo specifico che la Comunità Europea e la Regione Campania, perché sottolineo che la Regione Campania è l'unica che ha attuato questo sistema previsto, tutte le altre regioni non hanno una figura analoga anche se prevista dalle norme europee. Quindi questa volontà di distinguersi positiva ha fatto riscontro però una fortissima resistenza del sistema, lo vogliamo definire così. Se definiamolo così, lei generale ha detto questa frase per esempio: nulla, per mesi nessuno mi bussava alla porta, non mi davano carte, fascicoli, un faldone, cercavo qualcuno con cui interloquire e trovavo solo sguardi distratti. Ma insomma, si sarà chiesto, sarà andato da Caldoro a dire: presidente, qua non mi fanno lavorare, lei mi ha messo qui, ma... Il presidente Caldoro ha sempre dato ascolto e ha dato disposizioni, ma le dicevo prima che anche lui gioca con l'handicap. So che ha un alto indice di gradimento, credo che sia il terzo governatore in fatto di gradimento in Italia. Se non avesse questi handicap probabilmente sarebbe... Più elevato in classifica. Ma mi scusi, generale, è più potente, uso questo aggettivo forse sbagliato, un governatore eletto o un dirigente della pubblica amministrazione che vuole ostacolare qualcosa in Italia? E se fosse uno, forse sarebbe più potente il governatore, quando invece è diffuso questo modo di agire, allora diventa un impedimento forte anche per un governatore che vuole governare. Io ricordo quando lei era stato nominato all'ASL 1, commissario straordinario di Napoli, già stupisce, può stupire il fatto che ci voglia un generale dei carabinieri per commissariare un ASL. Lei fece, se non sbaglio e mi corregga, questo provvedimento appena arrivato. L'ASL aveva sede in un ufficio in cui si pagava un affitto. Ma 800.000 euro all'anno, ma lei scoprì che il comune di Napoli o comunque l'ASL era proprietaria di un edificio in periferia di Napoli e quindi si poteva non pagare l'affitto e andare lì. Arrivò e nel giro di 6 giorni disse: trasferiamo tutto di là, no? Sì. Cioè con una firma, e lei mi raccontò, dice: vedete che basta volerle fare le cose anche nella pubblica amministrazione, se si vuole farle, per far risparmiare con una firma 800.000 euro in 7 giorni. E perché non si fanno? E non si fanno perché spesso non si manifesta la volontà di non farle, ma si inizia a studiare il problema, a riunire gruppi di lavoro, a esaminare le varie posizioni, le varie soluzioni, e mentre il medico studia l'ammalato muore. Insomma, mi fa anche un po', mette anche un po' di scoramento, generale. Immagino che lei, da uomo delle istituzioni, creda molto nelle istituzioni, nello Stato, o no? O mi sbaglio? Certamente sì, tutta la mia vita professionale dovrebbe raccontarlo, ma anche questo mio successivo impegno vuol dire che credo fortemente che si debba, e io certamente lo voglio fare, ma non ho mai affrontato le battaglie impossibili. Questa attuale mi sembra che non impossibile. Sia, cioè, è risolvibile con le mie forze e con i miei mezzi. Cioè si vedeva non contro una persona, ma contro un sistema proprio che non ha, ma che cosa è secondo lei? Non ha accettato il fatto che lei fosse stato messo in quel ruolo? Non ha accettato che ci fosse un controllo da parte di qualcuno? Sì, è un mix di ostacoli, le cui motivazioni posso supporle, ma perché sono abituato ad attenermi ai fatti e non faccio congetture, ma certamente dentro di me si alimentano numerose. Il problema è questo, ma perché una persona che secondo lei rema contro, diciamo così, la pubblica amministrazione ed è un funzionario della pubblica amministrazione non può essere, come dire, messo in grado di non farlo più? Perché se fosse uno sarebbe facile, se fossero alcuni sarebbe ancora possibile, quando sono la maggior parte diventa un'impresa difficile, se non rigenerando, rivoluzionando l'intero sistema. Mm. E credo che questo è un problema fortemente sentito a Napoli in Campania, ma è in tutto Italia. Ah, certamente, credo a livello nazionale. Quindi per concludere, lei si sente di lasciare o di lanciare un messaggio di ottimismo o pessimismo? Perché dalla sua storia, insomma, sembra più di vincere un po' più di pessimismo, come dire, sono più forti loro, mettiamola così, coloro che remano contro. Ma c'è la possibilità c'è ancora molto spazio per poterlo fare e quando si può fare, credo che quello che recentemente ho fatto all'ASL dimostra che volendo si può fare, anche contrastando una classe dirigente, una buona porzione, una buona fetta della pubblica amministrazione. E forse questi sono i tempi giusti per fare questo. Per mettere mano anche a queste cose. Per fare questo tipo di rivoluzione. Io, se è tutto vero e siccome mi fido ciecamente, me lo auguro e lo auguro soprattutto a tutta Italia, ecco, che possa essere così. Intanto, generale, la ringrazio per essere stato con noi. Grazie a lei. Grazie, ci saranno altre occasioni. In bocca al lupo ovviamente al generale Maurizio Scoppa, come detto, è stato prima commissario straordinario della ASL di Napoli, poi era stato messo come esperto trasversale in legalità e sicurezza a controllare i fondi, oltre 2 miliardi e mezzo dell'Unione Europea per la regione Campania, ma dopo 6 mesi dice, insomma, con tutta questa palude che ho verificato quotidianamente, non potevo continuare a lavorare. Allora, noi dopo la pubblicità ci concentriamo invece sull'ennesima strage di migranti. Ogni volta si parla di queste problematiche quando c'è la contabilità dei morti. Per la verità non si capisce ancora quanti siano morti al largo di Lampedusa, 100 miglia a Lampedusa. Per il momento si dice 12, ma pare che manchino all'appello 100 persone. E soprattutto l'ennesimo grido dell'Italia a dire l'Europa ci abbandona. Saranno con noi Gianni Pittella, vicepresidente del Parlamento Europeo, e Magdi Cristiano Allam, tra poco. 24 mattino. Eccoci cari ascoltatori, alle 8:35 minuti. Allora, le ultime notizie per quello che è successo al largo di Lampedusa, 40 miglia dalle coste di Lampedusa, che sono 17 le salme che sono state recuperate, dunque i corpi che sono insieme a 206 sopravvissuti a bordo della nave Grecale, stanno arrivando e arriveranno a Catania alle 13. Questa è l'ora prevista. Ma si parla di migranti nel giorno dell'ennesima strage e con le ennesime accuse all'Europa di non fare abbastanza, di lasciare l'Italia sola di fronte a questa emergenza continua. Noi ne vogliamo parlare con due europarlamentari. Gianni Pittella è vicepresidente del Parlamento Europeo ed è candidato per il PD nella circoscrizione Sud. Buongiorno Pittella e benvenuto. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Così come saluto Magri Cristiano Allam, anche lui eurodeputato e candidato per i Fratelli d'Italia AN nel Nord-Est. Buongiorno Allam. Buongiorno Alessandro, buongiorno. Allora, intanto chiedo questo subito Allam, di chi la responsabilità di questi morti, secondo lei? Ma io voglio evocare subito una frase di Matteo Renzi in cui ha denunciato che l'Europa salva le banche e gli stati e lascia morire le madri con i bambini. È un'Europa di cui noi dobbiamo oggi, come dire, interrogarci profondamente su quale sia la vera quintessenza. Questa vicenda, che è l'ennesima strage di clandestini, incarna tutta una serie di considerazioni che evidenziano come il fatto di non voler guardare in faccia alla verità, prendere atto che ci troviamo di fronte ad un traffico di clandestini gestito dalla criminalità organizzata, che in ogni caso noi non li potremmo accogliere tutti, parliamo di numeri che sono milioni e milioni di potenziali rifugiati in Italia, sì. E che l'unica soluzione possibile è quella di aiutarli a vivere dignitosamente a casa loro. Però clandestini, lei ha usato due volte la parola clandestini. Oggi il ministro della difesa Pinotti, intervistata ad Avvenire, dice che i due terzi delle persone, dell'enorme massa di persone che si riversano sulle coste italiane, o per meglio dire europee, probabilmente sono persone che hanno diritto a richiedere o lo status di rifugiato, di profugo, perché fuggono da situazioni di scenari di guerra. Va benissimo, la clandestinità consiste nel metodo con cui si tenta di entrare. Se si sono rifugiati che hanno diritto ad entrare, mettiamo delle postazioni sulle loro coste, identifichiamoli sulle loro coste, mettiamo a disposizione delle imbarcazioni dignitose, sottraiamoli al traffico della criminalità organizzata e salvaguardiamo la loro vita. Non possiamo continuare a parlarne solo dopo che ci sono delle stragi. Su questo non c'è dubbio. Io vorrei, Gianni Pittella, lei ha un doppio ruolo, se vuole, perché fa parte del Partito Democratico, insomma, di quel governo che in Italia effettivamente lancia appelli all'Europa, come dire, cara Europa, che fai? E lei però è anche un esponente importante al Parlamento europeo. Allora, l'Europa ci aiuta abbastanza, agli occhi ben aperti, ci aiuta anche economicamente oppure no, Pittella? Ma guarda, il problema di fondo è chi deve decidere, chi oggi può decidere, perché quando si parla di Europa, diciamo una cosa indistinta e generica, oggi il potere di gestire il tema immigrazione è dei governi europei, quindi bisognerebbe dire i governi europei non si mettono d'accordo e non risolvono la questione. Allora la soluzione qual è? La soluzione è decidere che di questa tematica così dolorosa e così importante si occupi la Commissione europea, un organo che abbia il potere di pattugliare le coste, di istituire delle postazioni sulle coste della sponda sud, di smaltire il traffico anche su altri paesi europei, evitando che tutto si carichi sulle spalle dell'Italia. Sì. Fin quando non c'è questa decisione, cioè che se ne occupa l'Europa intesa come Commissione europea, noi avremo sempre questo balletto tra i governi e i governi non si metteranno d'accordo. Ha ragione Renzi a arrabbiarsi e a dire gli altri governi europei non sono solidali con l'Italia. Sa Pittella che titoli mi hanno colpito oggi? Il Manifesto, che giocando sulla questione dell'Expo mette una foto dei migranti con il titolo Esposizione Universale, cioè Expo ma in maniera più drammatica, e invece la Padania titola Strage di Stato, addirittura accusando in questo caso, quindi la faccio intervenire più come esponente di quel partito che è spina dorsale del governo, insomma non ci sono responsabilità. Il governo italiano non ha responsabilità, adesso se vogliamo fare polemica elettorale su questa vicenda così dolorosa è veramente macabro. Io sto ai fatti, i fatti sono, c'è una direttiva europea del 2001 che prevede che quando ci sono flussi enormi di migranti che bussano alle nostre porte, i governi si possono riunire e a maggioranza decidono di ospitare una parte di questi flussi in altri paesi europei, evitando che tutto il carico sia sulle spalle dell'Italia. Questa direttiva europea, che dovrebbe essere applicata dai governi, non è stata mai applicata perché gli altri governi europei se ne fregano, non hanno nessun interesse a fare farsi carico dei problemi dell'Italia. Saranno allora... saranno porte europee, ma poi per il momento sono frontiere italiane. Però vorrei chiedere questo anche a Allam: se uno è in fuga dal proprio paese, come facciamo a identificarlo? Non so, uno va via dalla Libia, perché la Libia in questo momento pare sia un paese, tra l'altro, più disgregato di quanto possiamo pensare. Come si fa a dire, beh, scusi, prima di partire ci dica chi è, che diritti ha, eccetera? A volte si fugge perché si fugge. No, le cose stanno in modo diverso. Come mai oggi vengono tutti quanti soltanto in Italia, non vanno in Spagna, non vanno in Grecia, non vanno a Malta? Già quando nell'ottobre del 2013, dopo una strage che si era appena consumata al largo delle coste di Lampedusa, e Papa Francesco andò e depose una corona di fiori sul punto, sul tratto di mare dove si era consumata questa tragedia, l'Italia aumentò il costo del pattugliamento delle coste da 1,5 milioni di euro al mese a 10 milioni di euro al mese. Mare Nostrum. Sì. Ma in realtà questa operazione non è che mira a, come dire, a contrastare l'arrivo di questi clandestini, ma mira ad agevolarne l'accesso. Siamo l'unica marina militare al mondo che investe per l'autoinvasione. Così facendo, e ci sono testimonianze registrate in questi ultimi tempi, gli scafisti, la criminalità organizzata che gestisce questo traffico, in partenza è sicura che e imbarca centinaia di clandestini su questi barconi, con la certezza che ad un certo punto interverranno le nostre unità militari e li trarranno in salvo, vanno a colpo sicuro. Questa infatti è l'accusa che viene fatta. Io mi riferivo proprio a questo, torno un attimo a Pittella, quando dicevo responsabilità, non è che si vuole fare la responsabilità sulla macabra responsabilità sui morti, ma molti criticano l'iniziativa Mare Nostrum come un'iniziativa che incentiva i migranti a dire andiamo là che c'è la marina che in difficoltà ti porta intanto in Italia. È un fallimento, Pittella, Mare Nostrum. Pronto? Sì, sì. Ma perché prima non arrivavano? Ma che siamo? Non siamo ipocriti. Prima arrivavano. La teoria dei respingimenti non ha funzionato. Tutta la legislazione fondata sul respingimento, sul fatto che noi alziamo le barriere, non ha funzionato. Non è che prima non arrivavano, il problema non è questo, il problema è avere certamente il pattugliamento, ma stabilire delle quote d'ingresso, e questo lo deve fare la Commissione Europea. Dobbiamo decidere questo, se non decidiamo questo ci pigliamo in giro, ci facciamo l'esame di coscienza e ci purifichiamo la nostra coscienza, ma non risolviamo il problema. Dobbiamo decidere una volta per tutto che di questo si deve occupare il governo europeo. Ci vuole un governo europeo, la Commissione europea, che abbia il potere sostitutivo dei governi di stabilire delle quote di ingresso, di fare il pattugliamento, di avere una polizia comunitaria, di stabilire qual è la immigrazione che ci serve. Sì, però scusi Pittella, mi scusi, le quote di ingresso sono una cosa, ma di fronte a un barcone che arriva, lei che dice di fare? Quello va accolto? Assolutamente sì. Sono persone, io rispetto alle persone ho il massimo rispetto. Sono persone. No, ma è fondamentale questo punto. Riprendiamo da questo, da un attimo. Dopo il traffico, siamo con Gianni Pittella del PD, Magdi Allam, candidato ai Fratelli d'Italia nel Nord-Est, tra pochissimo. Allora, stiamo parlando di migrazione. Io vorrei che tutti tenessimo a mente questa cifra che oggi viene pubblicata dal Fatto Quotidiano, ma è presa da Fortress Europe, che è un sito che controlla e recensisce il numero di tanti dati, ma anche il numero di persone morte nella traversata per arrivare in Italia, o per meglio dire in Europa. Dal 1988 a domenica scorsa erano recensite almeno, perché non è facile poi, ma sicure, 19.603 persone morte nel tentativo di attraversare il Mediterraneo. Magdi Allam, le chiedo la stessa cosa di Pittella: sono persone, e che si fa? Si respinge una barca che arriva? No, allora ovviamente quando noi abbiamo a che fare con una imbarcazione in difficoltà in alto mare, noi abbiamo il dovere di soccorrerli, perché la vita è assolutamente la priorità assoluta. Detto questo, il Ministero dell'Interno 2 settimane fa ha detto che sulla sponda libica ci sono circa 1 milione di africani pronti a salpare verso le nostre coste. Il Censis qualche mese fa ci ha detto che entro il 2050 75 milioni di africani potrebbero riversarsi in Europa. Noi non possiamo accoglierli tutti, mettendoci anche tutta la buona volontà. Oltretutto siamo in una fase in cui soffriamo una crisi economica tragica. Ci sono 4 milioni e 100 mila italiani che non hanno i soldi per comprare il pane. Non possiamo spendere decine di milioni, miliardi complessivamente per quello che riguarda tutta l'assistenza che viene offerta a queste persone in un momento in cui ci sono tantissimi italiani che non hanno i soldi per comprare il pane. No, però Alam, aiutarli a casa loro, io non ho mai capito bene come si concretizza. Cioè, se ci sono dei regimi in disgregazione, non è che si può andare, voglio dire, se non aiutarli in maniera, come dire, umanitaria, assistenziale, che è una politica che è fallita, peraltro. Allora, noi dobbiamo... Allora, l'Africa è innanzitutto un continente ricco. Gli africani non hanno bisogno di soldi, hanno bisogno di formazione. Dobbiamo aiutarli attraverso la formazione affinché i giovani, che lì rappresentano il 70% della popolazione, e questo dato demografico è quello che oggi vede l'Europa particolarmente svantaggiata, perché su 500 milioni di abitanti dei 28 paesi membri dell'Unione Europea solo il 16%, 80 milioni, ha meno di 30 anni. Noi non potremmo, come dire, accettare che questo deficit demografico venga colmato da una invasione senza limiti, perché si tradurrebbe nella fine dell'Europa come società e come civiltà. Dobbiamo investire, sradicare le condizioni di povertà e di conflitti che ci sono in Africa, di cui parte di questa responsabilità è dell'Occidente, per convincere, per persuadere i giovani a scegliere di vivere dignitosamente a casa loro. Però Pittella, devo dire che sull'Europa si concentra anche lo stesso Renzi, anche il ministro dell'Interno Alfano. Cioè, lei ci ha detto come dovrebbe cambiare: più potere alla Commissione Europea. Per esempio, è normale che Frontex, che è questo sistema di controllo, abbia una sede a Varsavia, dove non mi risulta che, insomma, sia una zona strategicamente essenziale per affrontare la questione immigrazione? Sì, certo, non è la migliore delle scelte, ma il punto politico non è dove si trova la sede amministrativa di Frontex, ma cosa fa Frontex, quali poteri ha. Il punto vero, se vogliamo risolvere in maniera, diciamo, globale una questione centrale, è appunto decidere chi deve occuparsene. Fin quando la competenza sarà affidata ai governi, io la vedo dura. Ma invece una competenza centrale di una Commissione Europea la vede più facile. Cioè, sì, l'idea non è che si sposta geograficamente un problema. Si devono mettere d'accordo 28 governi, scattano gli egoismi nazionali e ognuno pensa a sé, e l'Italia è costretta a fare da sola. Però non crede Pittella che una scelta centralizzata a Bruxelles sia anche un'immagine un po' distante, anche geograficamente, dalla percezione di quello che accade? No, perché non è un problema geografico, è un problema politico. La Commissione Europea deve avere il potere di fare alcune cose. Uno, una politica di aiuto all'Africa, nel senso della formazione, dell'aiuto alla democrazia, dell'aiuto alla crescita e allo sviluppo. Uno. Due, controllo delle frontiere e accordo sulle quote d'ingresso, perché c'è un'immigrazione che ci serve e che sostiene la nostra economia e le nostre famiglie. Tre, pattugliamento del Mediterraneo. Tutte queste cose non le possono fare 28 paesi separatamente, le deve fare un organo centrale, altrimenti questo è il problema dell'Europa. Ma è chiaro, dobbiamo fare Europa politica. È certo, qui abbiamo due visioni in questo contrapposte. Pittella, europeista convintissimo, ha detto vicepresidente del Parlamento Europeo. Magdi Allam invece un anti-europeista, contro questa Europa. Magdi Allam, la spaventa l'idea di un'Europa Alessandro, che concetta. Alessandro, perdonami, Ma di che Europa stiamo parlando? La Catherine Ashton, alto commissario per la sicurezza e la difesa, è intervenuta su questa ennesima strage di clandestini dicendo: esorto le autorità libiche a controllare le loro coste. Ma la Catherine Ashton ha idea di che cos'è la Libia oggi? Ma la Libia ha minacciato l'Unione Europea dicendo ve li mandiamo di dove più. Dove non c'è un governo centrale, non c'è un esercito nazionale, ci sono una ventina di milizie, di bande che mettono sotto il paese. Che così la situazione è incontrollabile. Dovrebbe rassegnare le dimissioni perché ha detto qualcosa, che è gravissimo e significa che non ha la minima realtà di che cos'è la Libia oggi. No, però la questione a questa gente qua. Però la questione è proprio questa, cioè se dall'altra parte uno ha una controparte che anzi dice o ci date soldi Unione Europea, cioè dalla Libia, o ve ne mandiamo ancora di più, cioè uno cosa può fare, nel senso o va a una guerra tra virgolette, oppure se ha a che fare con una controparte non istituzionalmente, come dire, di profilo alto come l'Unione Europea, che si fa, Allam? Alessandro, intanto chiariamo che i soldi sono i soldi degli italiani. Quando parliamo di fondi europei o di soldi europei, parliamo dei nostri soldi. Il bilancio dell'Unione Europea è di 140 miliardi di euro che sono, derivati dai contributi dei vari stati. Allora, se proprio l'Europa, così come è messa, non è in grado di operare per salvare le nostre imprese, per impedire che gli italiani siano sempre più poveri e per porre una soluzione radicale alla questione dell'invasione dei clandestini, allora è meglio che i nostri soldi ce li teniamo e li gestiamo direttamente per il bene degli italiani e per prevenire sul nascere che questi disperati siano costretti a salire su delle imbarcazioni gestite dalla criminalità organizzata. Allora, comunque la pensiate, lei Pittella invece insiste su una maggiore Europa, un'Europa più forte, insomma, un'Europa che sia molto più incisiva, mi sembra di capire che è così, Pittella. Ho 30 secondi però. Non quella attuale, sia chiaro, non sono il difensore di questa Europa, ma voglio spingere verso l'integrazione politica dell'Europa. No, ma chiarissimo. Allora io vi ringrazio, Gianni Pittella, voglio ricordare, del Partito Democratico, è candidato, è ricandidato, visto che è già vicepresidente del Parlamento Europeo alla circoscrizione sud, e Magri Cristiano Allama, anche lui eurodeputato attualmente, candidato per Fratelli d'Italia nel nord-est. Ci fermiamo qui anche per oggi con Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Alessandro Marco Tulli in redazione, il nostro alpino Peter Pescapè è tornato lì pronto in regia. Ci potete seguire anche su Twitter, il mio profilo è Alino Milan, il profilo della trasmissione è 24 Mattino, e così potete anche scriverci mail, 24mattino@radio24.it. Che dire, domani alle 6:30 siamo qui, non è che andiamo da qualche parte. E allora, a domani.